Carissimi cristiani, vi ho detto tante volte che la liturgia è la madre di tutte le preghiere e beato colui che è capace di trarre dalla liturgia la sua stessa preghiera. E questo lo ribadisco anche oggi che celebriamo la messa per la Beata Vergine Maria di Fatima. La prima orazione del nostro rito ambrosiano ci dice: O Dio, ci rivolgiamo sempre al Padre, tu hai voluto, io corro via, ma mi piacerebbe fermarmi su ogni parola, tu hai voluto che Maria, madre del tuo figlio, fosse anche nostra madre. Guardate che questa è una frase piena, che la madre del tuo figlio fosse anche nostra madre. Fa che perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, penitenza e preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del Regno di Cristo, per la crescita della nostra comunità parrocchiale, così bella in voi che siete presenti, ma così misera in tutta la grande quantità di popolo e di giovani assenti, territorio di missione. E dunque sono importanti le parole che dice questo testo, perseverando nella penitenza e nella preghiera. Io credevo, arrivato alla mia età, di aver conosciuto come si prega la Madonna. Lo sto scoprendo adesso, penitenza e preghiera. Sono stato a Medjugorje e vedendo tanti messaggi di Medjugorje ricorre in continuazione preghiera e digiuno, preghiera e digiuno, con un ritmo incalzante. E poi dopo io ripenso a Fatima, cosa ha detto la Madonna ai pastorelli? Pregate il rosario e fate penitenza. E sti poveri bimbetti, nella loro generosità innocente, arrivavano a dare il loro pane alle pecore per provare loro la fame. Ma chi gliele ha insegnate queste cose se non l'amore dentro di loro? E poi vedi a Lourdes questa ragazzina Bernadette che va sul fondo della grotta e si fa ridere dietro da tutti perché beve un'acqua ancora melmosa e mangia dell'erba. Ma sei matta, ma perché l'hai fatto? La Madonna ha detto penitenza. E allora io mi sento spinto, umiliato perché la preghiera e la penitenza devono ancora fare tanta strada in me, soprattutto la penitenza. E allora mi rivolgo a te, Maria, e ti dico: sii tu la mia maestra, insegnami tu come si fa. Insegnami tu come si fa. Pregare il rosario me l'hai detto in tutte le apparizioni che hai fatto su questa terra e lo imparo e lo rilancio ai miei cristiani con San Giovanni Paolo II. La famiglia che prega unita resta unita e il rosario è la preghiera della famiglia. Poi naturalmente c'è l'Eucaristia, la parola di Dio, mancherebbe di dover saltare questo, siamo qui a messa, no? La preghiera e poi la penitenza, il digiuno e la penitenza. Oh Madonna, insegnami tu che sei maestra. Come si fa? Perché io voglio obbedirti, ma sono arrivato vecchio e non sono ancora capace. Ti prego, sii tu la maestra che mi insegna le regole, i passi, i compiti da fare per fare più preghiera e soprattutto più penitenza e più digiuno.